Attenzione Gianni, Natalino ci sei? Chi c'è? Ora? Attenzione Natalino, Natirus. Oh, mi dica. E buonasera, e allora? E allora, siamo qua, mi stavo aggiustando il computer che era messo male. Adesso il volume che vai Natalino, mi hai fatto zoggio. Volume? Ega volume, aspetta che... Ecco, l'ho abbassato tutto il machin. Adesso è perfetto. Gianni è acceso, ancora no. E adesso entra Gianni, entra. Ma chiamato l'hai a Gianni? Era al telefono fino adesso. Adesso accende, era quel cazzo. Me lo posso immaginare. Io tutta la sera aggiustandomi questo computer. Niente, io ho cucinato questi prattaglioli. Aglio e prezzemolo, filo di olio. Poco fa mi... Avevo due quadratini, quel pane quadrato piccolino, quei triangolini. Mi raggio, riempio, sono andato un pochettino col microonde, bello caldo croccante, ci ha messo il fughetto, lui mi ha già mangiato. E poi dato per finire adesso ho mangiato un biscotto con cerone, gelato. Cappa, io invece non ho mangiato un tubo, se vuol dire. Non posso chiedere altri sogni. Ma ho fatto il sugo per domani. Qual è il sugo per domani? Me l'ho fatto perché così domani mattina ce l'ho pronto, capito? E io se mangio per in vena non posso il manzano, sennò se la mia luce. Allora decide e faccio altra cosa, capito? Gianni, ritratto sì. Boh, avevo accendere il baracchino qua. Beh, andava. Eruia. E vabbè, domani domenica, ha messo più già domani, E forse anche ciò che vuol fare, tanto. C'è la bigliellucia, ve lo dico. Io già me l'avevo fatto la roba stamattina presto. Ho fatto un bel lavaggio di lavatrice, stesa. Però è rimasta leggermente umidice perché c'è umidità, capito? E allora te la giubbuca dentro il gas, la può fare. Tanto c'è il riscaldamento acceso. No, io me l'ho fatto così almeno domani me ne posso alzare un po' più tardi, capito? Aio, spegnete in baracchino. Aio, grata al formaggio, grata alla polvere di marmo. E che cosa? La ciabatta. Ah, vuol dire che era bucata la ciabatta. E ho provato a accendere il baracchino, si va a tratti, fa così. Allora l'ho spenta, l'ho riacceso due o tre volte e adesso funziona. Ah, da lì, c'è la ciabatta bucata da Gianni. Quindi pure quella, bisogna dirgli addio, per pensione. Gianni, ma è vero che devi mangiare il brodino di mamma stasera? Mi sa proprio di scimmie, anche ci mangia da rizzico a pranzo. Chi cavolo? Due ore piccoline ha fatto. Mi sono addormentato, Natalia, ero stanco, mi sono addormentato e sicuramente lei mi ha visto che ero addormentato e mi ha lasciato dormire, a volte è meglio dormire che mangiare. E se non hai dormito, a recuperare almeno il sonno perduto, capito? Vabbè, e allora brodino di mammo stanotte. Di mammo no, ma di Davi magari sì, cioè ci sta bene. A me piace anche di Davi, lo sai. È buono lo stesso. È buono sì. Io comunque ci ho mangiato, due triangolini, me ne sono con i funghi e un gelato, il cucciolone. Tu sei tutta la sera, ma niente. Hai altra trasina, anzura, due quadratini, sono minoriti, meno della mano mia, non so, minoriti. Fai come ti dici, a tassita si vince tutto il buccione. Canta il tuo Gianni, hai visto Natale? Considerami la pizzina. In questo caso. Vabbè, che cosa arriva? Io ero... Ho fatto il sugo per domani mattina, così me ne alzo più tardi domani. E mi stavo aggiustando questo cavolo di computer. E cosa c'avevo? E il monitor che si è crepato. E adesso funziona. Eia. Nuovo l'hai preso. Ciao. Io un monitor ne ho uno. L'ho lasciato fermo, che questa mano non funziona più, un casino. L'ho provato, perché lo usavo col computer portatile, riattaccavo il monitor e guardavo da lì, capito? Ho capito. Ho comunque Natalino ha fatto il sugo presto, cioè stasera, così domani non c'è bisogno di fare il sugo, è già tutto pronto, quindi già le domani andiamo, passiamo anche a prendere Natalino, facciamo colazione, facciamo a regime di ricette e appunto. E se hai detto che più, vi verrò domani. Ma perché in macchina ti fondi tu, io penso di no. E poi, dentro il bar non ti fondi. E chi se poco ma sicuro. Ecco, tanto io devo andare a passare a prendere una giacca e fare qualche commissione. Farendi farendi, non dico in turitana, però farendi chi vi, anche se ci prisi viene il massaggio, dividiamo e faremo. Andrà bene mega. Gianni, a che ora passo domani? Verso le 10:30 così. Chi tu l'hanno è me? E io devo fare le gabbie prima, lo sai. Oppure gli uccelli prima. Guarda, adesso per dire una, siccome sono educato. Dove pulire la buzzona, Gianni. Io volevo dire se mi pulisce anche la gabbia l'uccello mio. Io uso acido muriatico, se va bene. No, ma che ci muri tu? Carità. Comunque Natali, più o meno 11:15 sono andate, va bene. Eia. Ok. Capitina, catitini a te e devo pulire le gambe e i cuccilli. Già, sei più delicato parlando. Io già sono delicato, siete voi che siete maliziosi. No, io te, noi lo, più o meno già lo sappiamo, però uno che non lo sa, ti ascolta e dice, ma io... Niente, le gambe degli uccelli, che cosa devo dire? E può pagare. Castroccaro, sentite. Canta, canta, chi vai a vedere oggi? Occhi azzurri, praterie, gomboline e gomboloni. Ma sei quello che vuoi? No, mica se ti sente quella, ti dà la sola in testa a me. Non mi sente che sta cagando in cuffia. E se deve sentire tu dici, asco, rimettere in cuffia e va a fare cuffia. Oggi alle 23 mi guardo Urbex. C'è Urbex stanotte. No, io mi guardo, c'è supposta per te, che inizia oggi. Ma te li fate fare di lacrime, ogni voce c'è il suo programma, mi fa piangere. No, a me non mi fa piangere, mi fa incazzare a volte. Ah, ma tanto sono sempre le stesse cose, quello che mi mette le corna, vuole fare pace, dopo che la voce 50 voci di gola vuole fare pace, boh. Sono cose assurde, aiuta, se non rispetti le persone, poi voi che le persone vengano da te, ti richino il sedere, no, non va bene. Se uno si comporta male deve essere punito. E infatti molti dicono, chiudete la busta direttamente, vero la mara. E dico, brava. Vai anche tu a c'è posto per te, così vediamo. Cosa? Vai anche tu a c'è posto per te. No, che sì. Io ho fatto, lo guardo, no? Per una cosa solo lo guardo già, non è che mi interessa più di tanto. Non si sa mai che si affaccia qualche duna che vuole tornare con me. Con chi sa che li muri tu. Mi sei tu. Avanti Natali, ma te l'immagina questo Torino? Sempre cercando, sempre in chicca. Sempre tira a gioco già. Sì. C'è tira e molla pure. E vabbè, ma si è fatto dopo per passare il tempo. O impegnarti la mente su altre cose, capito? Non puoi stare sempre a pensare a pulire, a mangiare, a cucinare, a lavare la roba. Devi cambiare un pochettino, assaggiare un po' la bicocca. Aiui. Ma se ne può fare cace nell'ana, no? Andiamo poi, andiamo. Raga, non fa che maschio. Oggi è sabato, non è maschio. Ha detto la colomba che mascio. Ah, che mascio, io ho preso che massi. Oggi è sabato, la carupa che mascio a giudizio. Cosa ci mangiamo a cena stasera? Brodino di mammo. Io organizziamo una pizzata veloce veloce, io fare babbuccio d'orra. Mamma mia, proprio la pizza d'orra. No, brodino di mammo stasera. Senti mortuica. L'ho mangiato, mattina già, il suo stomaco ce l'avevo. E ma dove ti porto io? La digerisci bene, la futtiditi. La mangi tranquillo, invece mangia la sanguglione come la mangi tu. No, io sono qua in casa a mangiare, sono andato a ritirare la pizzicotto 2 e io e lì abbiamo mangiato. Però ripeto, infatti ho pensato era con lo spumantino assi di cinzano dolce che è brutto lo gioco. E magari è quello anche, magari è quello, io lo so che il panettone me l'ha sempre fatto, quest'anno lo dico la verità, ma gli altri anni mi facevo questa cosa, se mangiavo il panettone a bruciore di stomaco, l'unica cosa che mi fa bruciare di stomaco è quello. No, a me ti posso dire una cosa, che tantissimo tempo fa, anni fa, io quando mangiavo la pasta asciutta, il sugo mi faceva cita, sempre cita. Adesso già invece sono passati parecchi anni, forse 15, e tiro cita non me l'hai più fatto. Ma sai a volte cosa lo fa? Anche le pastiglie, devi prendere sempre il gastroprotettore quando prendi le pastiglie, perché praticamente gli acidi che ci sono nelle pastiglie ti fanno quel lavoro lì. E io già sempre fatto prazzolo, lo sto prendendo ogni mattina. Lo prendo anche io quando prendo, no, ma non lo prendo di mattina, io lo prendo prima di prendere l'atido lurifico, là. No, io lo attudo la mattina presto, la prima cosa che faccio è metoprazolo, perché poi in seguito poi prendo tante altre pastiglie tutta la giornata, quindi mi dovete fare così all'ospedale, così sto facendo. Ma io mi auguro di non prenderne più. Tu, anch'io no, ma... Oh, yeah. Cazzo intendi, se cos'è un cotoleggo che c'è un canale? Ma cazzo ne ha futti. C'è libertà di parola, ognuno parla di quello che vuole. L'interessante è che uno sia corretto parlando, poi può parlare di quello che le pare. La libertà di parola è questa. Giusto, io te l'appoggio già. Anch'io gliela appoggio a Gianni. Poi che è su Fisigu, se non andano là su canale. Allora te la fai appoggiare, dai, va bene. Oh, yeah. Andiamo bene, andiamo. Allora, si organizza questa pizzata o no? No, brudino di mamma, devi mangiare stasera. Aiuto, Tony. Ma in due, si viene anche la Tarino, sì, dai. E a chi? In due, la TV ci siamo mandati. Vabbè, ma adesso c'è anche in carrozza, c'è anche in cosa, la Tarino, eh. Se non lo vuol venire, è attaccata la moglie, che ci posso fare? Passiamo, lo prendiamo lo stesso, diciamo, aiuto, Trumba, vieni con noi, che ti portiamo a fare, a assaggiare una cosa bella. No, cioè, le minestre, la minestra è lenticchie stasera. Le lenticchie, lascia stare a Capodanno, farò bene. Ah, tra l'ottinetta e di là, sempre mangia di lentizza, Ishu, per farvi di là. E allora, minestra e lentizza, e te grai da Zavizza. No, ma io so teccio, che avete detto prima già, fate scherzi. Mangio mangiando questi due triangolini con i funghi, col gelato, io ce lo faccio a piena, raga. Vabbè, ci vado da solo, eh. Non ci andare da solo. Andiamo un altro giorno, viene a chiamato lì e siamo tranquilli. Oh, io avevo voglia di sguizzare l'acqua. E io ti ho capito a te già. E sushi? E sushi? Aspetta che butto questa buccia del gelato un attimino, ripetiamo una tarina. Sushi fai lì. Comunque la femmina dove la prendo io, è la verità. È bella compatta, bella asciutta. Le fette sono belle, questa di Cosimo l'avete vantata ma non mi è piaciuta, cioè come sapore non è cattiva, ma è tutta gata muda muda, buh. Ma qua ti dico che la faceva bella croccante, io sono da molto che non ci vado da Antonio per quel motivo che ti ho detto, però boh, mi pareceranno gata chi si esce da così. E già beh, Tonino, la sua guida di vescerie. Andava a abitare che si sfaldava tutto. Che cosa? Ah, te la fai lì? Allora cosa? Oh, ero fuori a buttare la spazzatura, capito? La buccia del gelato. La buccia, almeno pensavo che ci due o tre gelati. Sapete lo gelato quella farina? No, sono entrato, stavate parlando, poi ho detto si sfaldava tutto, qua e là. Ho capito che la fai lì. La fai lì. Oia. Quella di Pira è buona, io da lì non mi muovo, me la fa bene, me la fa bella compatta, le fette belle intere, non mi si sfalda, è quella lì. Gianni, per me come sono arrivato io era nel forno, come la poi l'ha tolta, me l'ha tagliata, forse era troppo calda, invece me la faccia un po' carino e vedere che non si sfaldava. Quella di Pira mi arriva a bollette, già l'hai mangiata tu, sì, arriva a bollette a casa, non si è mai sfaldata, bollette arriva. Sì, ma niente di troppo, che non lo so, l'ha subito messo nel pacco, invece la forse qualche minuto fuori la lascio, la passasse un po' garito. No, no. Boh, è uscita male sicuramente, qualche cosa ha sbagliato, perché non è possibile. E Pila me la tagliava, a volte sono andato io a prendere, me la tagliava davanti, appena tolta dal forno me la dava. E tornavo a casa, era bella compatta sempre, non faceva questo affare qua, boh. E anche a me me l'ha portata di lusso, quella di Pila. Me l'ha portata qua, è arrivata bollente ed era di lusso. L'ultima volta però mi ha rotto le scatole, dice che non c'aveva i ragazzi e ho dovuto mandare un amico a pigliarla. Quello già c'era, te la porta sempre in ritardo, non te la porta mai in orario. Ma non ne aveva proprio gente che la poteva portare l'altro giorno, l'ultima volta che l'ho presa. E dovuto andare quell'amico mio a ritirarla a lui. Infatti in moto gli va a fare freddo. Infatti. C'era quel bauletto dietro, che la cassettina in legna, stazza la buona dritto, è bella, quella bentata. A domani è domenica, mi. E domani è aperto, mi, tutto quanto. Sicuri, chef. Eia, non mi hai fatto, sono finita, la mia fara se n'è andata. Capa, vabbè, se è finita. Guarda! Ma no, ciao mi. Stanno cantando in inglese. Invece guarda, oggi si mette un bene calduccio a casa. Domani a fare colazione, 2-3. E un altro giorno, poi scendiamo, andiamo a questa roccia a mangiarci la pizza. Via, cava. È così. Come è andata lì, quindi tu sei per le ticche, ma fai di là, no? E allora? Oh, yeah, mi sono sdraiato, che bello. Oh. E adesso lunedì mattina, caro Gianni, 7:30, vado, prendo e riporto qua. E poi tu là. Cavagato. Conferma il messaggio, sono a posto. Vedi, questo è un altro giorno per svagarmi diversamente. Svaga. Dato io si svago le ginocchia. Non ti basta il baracchino, cosa vuoi di più? Cosa? Non ti basta il baracchino per svagare. No, non mi basta. Ci vuole un'altra cosa più dolce. Con il gelato. Ma ne piace nell'ara. Natali, riprendi. Bertonino, ci vuole il gelato. Natali. Oi. Riprendila. Ho detto, Bertonino, ci vuole il gelato. No, che non ci ho mangiato. E ho tanti tipi gelato. Già lo so. No, io sono l'estate di figlio. E mi pigliano, sai cosa? I cremini. E poi come gli altri. Ma io sinceramente volevo mangiarmi il cremino, poi ho detto, ma quasi quasi cornetto alla crema, no, forse cornetto al caffè, poi mi sa che prendo quell'altro che è tutto... E si la mangia di tutto il tonno che è dentro il rosso e buono, e poi me, allora mangio un biscotto, va, e mi sono preso il cucciolone invece. E per non sbagliare ha fatto tris. No, una sola, è bugia, non si può... A me che di vero mi piacciono i gelati, farò bene alla gola. E a uno di rimani tutti. No, io non mi chiamo Gianni, no, che non faccio una cattura e se ne mangia tre cattoli. Ma io l'inverno non le mangio, io li mangio solo d'estate. Ma d'estate e basta, l'inverno non le mangio gelati. Oh, se capita invece una gelateria, magari capace ma non faccia, ma proprio a comprarli no. No, io provo che è buono il gelato d'estate, d'inverno forse. Poi inverno, messi brigaggio già, dai. Già si può mangiare, non vengo freddo. Certo, se c'è quel freddo che è stato lo zucchero, allora non le mangio. Noi siamo fortunati col clima, il clima nostro è mite. Ci sono certi posti, neve, ho visto su internet nevicate allucinanti, ma un bebaro. Vabbè, stasera ci guardiamo, c'è su posta per te. E io sono deciso su uno sull'altro, forse mi guardo Urbex, Davide Urbex. Ricerca di fantasmi. No, ricerca, poi c'è autodromi. Ah, oramai sono collaudato. Cazzo, ne ho visto uno, si è comprato questo macchinario che si sentono le voci proprio bene bene, ma proprio bene lì. Non come se fosse interferenza, no così, no, proprio bene, si sente quello che dice. Che canale lo danno quello lì? Cosa? Che canale lo danno? Che canale? No, è su internet, su TikTok. Io me li guardo quasi tutti, a me mi appassionano, sono molto intriganti. E io non guardavo su di Max ogni tanto, lo davo notte e tardi. E poi non ho più visto che davano 1000 voti per morire, gà. Bestiale quello lì. Lo vedevo anche io quello lì, 1000 voti per morire. E io. Questo tipo allora dove andare dall'amante. La moglie non lo sapeva. La moglie figlia dei buoni mezzo Viagra, ha detto MG. Lui tranquillamente ha pigliato, ha vinto, non ce l'ha bizzato. Poi si è preso anche un altro lui dal centro, perché sta andando all'amante, arriva dall'amante, gli dà una pastiglia presa più vigorosa, che dal centro mica è cremato. Io credo, se ne ha pigliato tre. E cosa ne sappia, che se ne abbiamo preso uno, una mogliere, uno all'amante, ve la puccia qua. Queste altre due, ho visto le sbicotte, lei questo ha fatto le mutandine e il reggiseno di tutto di caramelline rotonde, ma a me dove ho fatto me? Chi data la baciava, ci vuole magna, dalla mutandina, cazzo non si era mizzata, ne è andato lungo il di traverso, e a fughente, chi da continuente, dai, e chi ti è buscato? Ti è stronzata praticamente. Allora io ne ho portato uno con un infarto, una volta all'ospedale, e gli ha detto al dottore che aveva preso due Viagra. E sai cosa ha detto il dottore? Adesso lui la userà solo per fare la pipì. Peggio maestro. E poi quell'altro ho visto, due amici, dice la grassottello, vai, se lo faccio io ti faccio guarda con l'aspiratore. Abbia chiesto con i. Quindi l'aspirapolvere dici enorme, che c'avevamo anche noi in corso, in cantiere c'avevamo. E niente, l'ha messo, l'ha ammazza e l'ha messo in tubo a aspirare. L'ha fatto tagliato, c'è entrato giusto. Si è aspirato anche le budella, l'ha ammazzato così. Favaraccio, così mi l'ha fatto. E allora, sì, se no stanno affidando, pure l'altro, facciamo vedere un bel cazzo di sì. E quell'altro, che i due amici, quello in macchina, quello col manopattino, saliato un canao alla manza. E che tu con la macchina, con lui che tu l'ha preso con un carruzzo, con lui da macchina, fa la guiva, oh, si incastra il coso, il manopattino sotto la macchina, e lui l'ha tagliato in due con un canao via alleato. E lo credi? No, io guardo anche alle 9 di mattina su canale 9, 8 e mezza, 9, dai, 8 e mezza, e guardo quello praticamente Alta Infedeltà, e dopo di quello ci sono omicidi in America che succedono, tutte queste cose qua, e mi piace. E tu canale 9 lo guardi un po' tardi già a me, io lo guardo alle 5 del mattino, e c'è mi piace di più l'aeroporto, la finanza che li controlla, la dogana, sigarette, di tutto, insomma, tutto il ciclo di droga. E quello l'ho visto su T-Max. E lo danno a canale 9 pure, la mattina presto, 5 e mezzo, sì, se vuoi ti svegli domani mattina, così te lo guardi. Anche a 52 c'è, cioè, su di Max. Il nome è la che è avanti, che è? Oh, ma ha sentito una voce o sbaglio? Sì, a me Maria Luca. Lucrezia, avanti tu, va, Natalia. Ho detto anche su di Max, cioè quello della finanza che controlla la gente, canale 52. L'altro giorno mi sono spariti tutti i canali, che andai a rimanere i miei bari, e l'ho dovuta risintonizzare la televisione. E come mai, Natalia? Perché hanno cambiato frequenza e non si vedeva più un cavolo, allora me l'ho dovuta risintonizzare e torno. No. Vabbè. No, io lo so dire, ma... Niente, c'è sempre questo l'ultimo che avevo preso, HD 60 pollici, in camera c'è sempre quell'HD 140 pollici, grazie a Dio, e non devo già venuta, una volta solo e buh, niente, chi mi ha messo internet qua, mi ha sintonizzato col televisore pure, che non lo sapevo, ma tutto lì sta fatto. E i canali scappa, anche la mia è così, solo che hanno cambiato le frequenze, capito là, è per quello che non si vedeva nei canali. E allora l'ho dovuta risintonizzare, ho messo risintonizzazione automatica e sono riapparsi tutti i canali, capito? Comunque hai ragione, anch'io lo guardavo sul canale 52 di Vax e cosa ha finito, poi vanno lì un po' sul 9, poi oggi è sabato, dovrebbe essere dunque, no, non mi sento, ieri notte, stamattina alle 3:30, 4 del mattino c'erano i cicciotti sul canale, sul canale 31, real time. E oggi o domani ci sono di nuovo i ciccioni. Nudi e crudi, non lo guardi mai. Lo guardo qualche volta, poi non mi piace più come prima. Perché tappano tutto, la donna non si vede quasi niente, ma che le tette, ragazzi. Ah, lo guardi per quello, allora guarda che film il porno come prima. Io lo guardo perché è un programma, diciamo, particolare, che mangiano insetti, tutta questa roba qua. Sì, no, non è che guarda il porno, il porno vedi già tutta nuda, no, non andrà più bene. No, sono persone che sono anche sposate già, capito? E per me sono sicuro che quando comunicano insieme qualche cosa la faranno, perché l'altra notte ce l'ho acceso e c'erano nude e crudi e vera ghita, avviciniamoci che ci scaldiamo. E quando me una prima nuda ci muove vicino a te e tu, mi mai strano. Non sono tutti mariaci come te. Ma ciao a me, Natalì, non ne posso fare caso nell'anno a Isso. È naturale, un contatto di carne, di pelle, di cose, contatto, è ovvio che si sveglia gigolino. Ma vabbè, ti racconterò, dai. Io non ci riuscirei a avvicinare una donna appena conosciuta e la notte stare insieme, nudi crudi, e in una piccola baracca di vemo attaccati a caglizzi e non sono stati nudi, a me è mai chiaro, boh. Quello si chiama autocontrollo. Io purtroppo l'auto non ce l'ho, ma neanche il controllo. Tu sei un rude, sei un primitivo. Purtroppo la cosa più bella, quella del mondo, è come fai a dire no, è una bravura. Natalì! Pure sto mangiando le lenticchie già. Mangia lenticchie. Dai, che domani ti porto i soldini. E ci paghi la colazione così. Ma è pure un vero e proprio Natale dove. A chi sa che tu ti vieni minimo 3 pasti. Non ne mangio io pasti. No, tu domani non ti vieni in macchina. Ma. No, non ti credere. Non credere che le mangio. Ma non è che scendendo facciamo la frottolella e poi faremo via Natalino. Oh, quella si stufferà di venire. Vabbè. No, comunque io sono già sazio già. Io per oggi ho già mangiato. Domani a pranzo dice che viene di nuovo Monica. Comunque, il croissant è quello alla marmellata, pieno era. Ce n'era. Natalino deve tastare ancora. Natalino già lo so, ci fa cauto, non è come te teme. A Natalino diamo i cannoncini alla crema. Quindi se facciamo i cannoncini la marmellata non è meglio. Ma non schifo, a me la marmellata non mi piace. No, già è buono già. È la bicocca. Io ho i cornetti con la marmellata. Lo vedi, quelli sì che sono cornetti, che ma con la crema la sangosa, la crema c'ha il sapore proprio della vaniglia, proprio un sapore buono, fatta bene, crema casereccia. È l'icaggio, è l'icaggio, Vito Gianni. E allora, io sono stesso i cornetti a marmellata congelati, le metto nel forno, diventano i manni, li metto i gatti, i croccanti, le faccio raffreddare un pochettino e poi me li mangio, se muoio. Cosa c'hai chi con la crema? Che vuoi troppo zucchero, gà? Sì, invece la cosa non ce n'è zucchero, no. La marmellata è zuccherina al massimo, cosa devi dire? No, bello è quando ti mangi quelle ciabatte, che come le morsichi, te ne c'è la crema da una parte all'altra. E così ti piace a te, cadami dei muntini di crema, te qua. Fammi che li caggio. Ah già, così ti piace. Andate. Eppure se ragazzo, guarda, la faccenda dico io, se posso trovare a mezza frittella, tre poco un chili di crema, poi ti vedo con tua maglia già. Però sono del parere che i cannoncini fanno meno male delle frittelle, lo sai. Ma ciao mi, avevo mangiato solo cannoncini mi. Poi ci sono le croissant, li posso fare riempire anche di crema, lo sai, croissant. Li puoi fare o la crema, o al cioccolato, o la marmellata. Oppure senza nulla. Sì, lei li vende senza nulla, se poi tu vuoi l'aggiunta te la mette, capito? Ti mette quello che vuoi. Boia. Ma giubilato la droga, va. Ho già un attimino di quel X sono alla bassa, subito. Sì, anche adesso sono le 7:30, grazie a Rola. Sì, 7:20. Eia, eia. Ti tengo già belle portentosa. E fra poco è ora. Ora è. Fra poco è ora. Ora di Sanrami. Lo so. Oh, yeah. Io ho già mangiato. Io da te. Vabbè, io ho mangiato alle 5 oggi, te l'ho detto. Quindi fame non è che naggio. Mangerai quando ti viene fame, molto ci vuole. No, mi mangio lo yogurt stasera e basta, non mangio altro. Uno yogurt è buono a tali, già va bene. Tanto voi vi siete dissociati dal mio invito, quindi. No, c'avevo già la minestra di lenticchia pronta, cosa c'è anche via? Poi, magari in un altro momento organizziamo e andiamo già. Voglio provare con la pizzeria La Roccia, ti ho detto, e mi hanno detto che è un bel buona. E dov'è questa pizzeria La Roccia? Allora c'è a Sassari, nella traversa che c'è dopo la piazzetta, c'è una traversa, si va in fondo, c'è una scalinata, si sale c'è lì. E poi c'è anche a Porto Torres, ma noi andiamo per farci un giretto, quindi andiamo a Porto Torres e la mangiamo lì. E quando sono andato a Sassari, sono andato una volta con i miei, ci hanno dato anche la pizza alla Nutella pagata da loro, ci hanno fatto, prima di mangiare la pizza, ci hanno fatto le tartine con prosciutto, con questo, con la pizza, ma questo non lo abbiamo, no, questo lo offro a casa. Ci hanno dato prima l'antipasto, poi la pizza e poi anche il dolce. Allora, è buona, Poi ti chiedono come la vuoi, c'è per ciaci, c'è particolare, col segale, con questo, con l'altro, insomma c'è di mille maniere, no, normale. E bisogna che ci andiamo qualche sera. A Sassari, vabbè, l'ha aperta la mia ex collega, capito, questa pizzeria col marito. A Sassari io l'ho mangiata ed era buonissima. Poi il portatore, se c'è un altro pizzaiolo, non so come la faccia, però a Sassari era buona. E andiamo a farci un video. Andiamo a portatore. Andave, andave. Ma domani a che ora ha detto? Che passa? Io mi sono dimenticato che era domenica, devo buzzinare pure. Vabbè. Dovevo fare il pollo al forno, adesso ne tolgo le cusce, faccio fare il pollo al forno con le patate. E anche io devo cucinare, è troppo tardi verso quell'ora lì. Ma prima non posso, Natali, prima te l'ho detto io cosa c'ho da fare. E anche io devo cucinare, ma di fatto il sugo da oggi vanno a avere problemi domani. Ah, io già non le mangio prima, per quello non c'ho problemi. Mi sono comprato la pancetta affumicata, mi sa che posso passare a carbonare domani. È buona anche quella. È buona sì, e sono anche da molto che non le mangio. E anche io, la verità. e anche pasta al pesto. L'ha fatta Manuela l'altro giorno, ma io non ne ho mangiato, a passare al pesto. Cazzo, il pesto lo facevo io bene, cazzo, ma mi si ha un muro. Ci vuole basilico genovese. Sì, col basilico sardo lo facevo lo stesso. E mi si va di tutto veramente, guarda. Andava bene. Andava benissimo, non bene. Lo quasi a vasetti io in campagna. Le regalavo a mia zia, a mia comare, buon'anima, ne ho regalato di quel pesto. Se si mi ringhia nei ridizi. Sì, i miei comari mi avevano detto che l'avevi comparato, invece l'avevo fatto io. E i pinoli te li davo? Con i pinoli e tutto lo facevo, e allora? Andavi a fare i pinoli prima, poi li sbucciavi, li facevi tu, oppure li compravi fatti? No, li sbucciavo io, facevo tutti io. Ma è da pezzo. Ma mi sia un pezzo che tu ti ne ringhi i ridizi già. Già lo so, ma c'è un bel lavoro. C'è un bel lavoro. E vabbè, comunque. Meglio gusto che sei tomarale, zia Isha. Infatti. Ma più lo zuono allora, i diramoni in campagna, oi, che c'è poco buono via. Attiramente a Franco Fanari, anche a lui ne ho dato. Sì, Franco Pazzaretta, ma pure all'eminamento. C'era anche il CV con noi, disegnava un bel bene, disegnava. E cucinava bene lo stesso. A me chi mi ha insegnato a cucinare è lui. Ma non ricordo se aveva un pastore tedesco, un periodo. C'aveva questo pastore tedesco, bello. Ha fatto una fine, chissà dove se la vende in chili. A me mi dì, e se ci do in chili, a quello gli è venuto qualche malore, qualche infarto, perché non è possibile che si sia ammazzato lì. Ma poi tu mi hai detto che quella strada non l'avrebbe mai fatta, che non la faceva mai. E cosa vuoi che ti dica? Qualche malore gli è venuto a Franco, la verità. Perché ho ucciso libro, mi pare un po' impossibile. Cosa viva zia Ghisora in chili? Zia Ghisora era sempre ritirato. O è qualche femmina che fa la dinchiva a questo d'orra, lo? E appunto, magari non te lo diceva a te, c'aveva qualche storiella, boh. E così l'altro giorno, il 24 di dicembre, ci ha messo il discorso. Eravamo tutti quanti insieme, Manuela, a casa c'era Liliana, c'erano tutti quanti. E praticamente a un certo punto Manuela accende il telefonino e ha visto, Manuela è stato trovato il portafoglio, il via Cavour, eccetera, eccetera. Siamo dovuti andare via Cavour in questo bar, però era chiuso. Poi l'ha interpellato, ha chiesto il numero di telefono e l'ha telefonato e è andato a ritirarsi. Allora praticamente lì via Cavour non c'è mai passata il giorno, non c'è passata per niente, era tutta l'altra parte. Questo borsellino deve essere, gliel'hanno rubato dalla borsetta, hanno visto che non c'erano soldi, c'era solo la carta di credito, documenti, patente, tutto quanto, e ce l'hanno buttato lì, capito? Più che così no, già. E si è trovato la borsetta aperta, però sicuramente è successo così, capito? E qualcuno è entrato la mano e veniva curato. Stavano facendo l'aperitivo, capito? Erano giorni particolari, c'era un po' di gente nei bar e cose. E allora? E la sera hanno visto la borsetta a bicicletta e hanno entrato la mano. E io ero la vista Eddie. Anche a Liliana l'avevano fatto dallo zainetto, infatti questi zainetti non conviene mai averli, conviene la borsetta, ce l'hai davanti. Questi zainetti li aprono senza che tu te ne accorga e ti si infila di davanti. Ah, pure chi si borseggia, si sta proprio sporcando tutto qua. prima arrivano da altre parti, poi arrivano qua, capito? Queste cose qui. E poi se tolgono le tue cittadinanza le vedrete belle. Ci saranno furti a tutto andare. E aumenterà la delinquenza, questo senza ombra di dubbio già. Già, non si bruciare, no, che pare un ghetto. Pari. Cazzo. Sono già succedendo, di furti, di cose, ma aiuto. Vabbè. Lo so, perché lì c'è gentaglia, specialmente questi di colore nigeriani fanno casino al corso, non si può più passare, è tutto pieno di nigeriani, non vedo manco più sassariso allo corso, tutto pieno di nigeriani. E vengo con il fuoco, e no? Arrugge una poesia che tutto pieno di spacciatori e un macello. Se dice che stendevano la roba e gli rubavano i pantaloni dallo stendino. C'è gente che ha detto che praticamente gli rubavano la roba dallo stendino, non facevamo anche a stendere la roba. Giurati. Sempre risse la notte, risse di tutti i tipi, zichirri, cose varie, ui. No, no. Non è un ambiente giusto. Via me, mi. Sei fatta virare. Cazzo qua, quando si va a fare un telefono, è una colla, Chi era Capriu? Ma cosa Capriu, era Monica. Ah. Ha detto che domani a pranzo può venire, si è dimenticata che devo andare al Ghero, che deve vedere una macchina, una 600 per la madre. Ho capito. Vabbè, meglio così. Tanto, devo fareccia io, qui tanto male, lo faccio mai me, boh. A chi lo fa di nudere? Poi, ma... L'avrei messa in riga io. Ma certo che dopo faccio male piazze, io non posso fare male piazze. La di che poi sono occupato del tutto, che me fa con cosa, esci me la mezzo. Avanti, Tattalino, tu cosa ne pensi di questo Playboy? Ti fa ragione. Vedi, vedi, le persone che mi conoscono bene a me, già, eh? Ma Tattalino va già in casa, la mia ex moglie, un bel... A chi dice che la me la si la fa a mano sui, ha detto cosa si come facendo i cani da caccia. Ehi, sia Misani. Io mi la posto a mano mia. La donna non bisogna mai farla comandare, mai. Senti, va bene con il signor apri la Ianna e vai a dirmi. Già mia moglie mi tratta come uno zerbino. Non so così ammazzarla va o ammazzarla da buio. Addirittura lo zerbino. Io via. Se ne approfitta chi aveva so come rabbi, no. A ricaffiotto, non so dove si sia. Tranquillo, va. Le femmine non si toccano, solo con fiore, quello del girasole ha del carico. E infatti per Franco mi vuoi dare un nevio, così la posso pure stare più bene. Tanto sei di mare, le femmine non si toccano la lì. E io non andò con rimani, no, e qua con i nevio, ma andava bene. Io sino adesso sono riuscito a non picchiarla. E a me pare già se si sì, reggia ti vuoi a te, tu che non puoi fare, sai cosa va? Allora non ti puoi muovere, no, va che avvati chissà. Già, chissà di cui di voci, ti lascio. Tutto nero, già fumè non lo conosci. Adesso magari sarò indebolito, però l'agricoltura è in pari io. Ma in queste condizioni come sei adesso, chi dà il miglior mattarello te ne fu da capo? Io non è così. La vostra deve rimanere viraggio. Chi dà il miglior roccio e ti faccia ricorri di faccia. A te lo mattarello di miglia. Ma a me non aiutico di femmine, no, non sono il tipo. Ma neanche io non l'ho mai toccata a mia moglie, mai. E se la voglio ammazzare fino a stasera? Allora, non so così, ammazzarla là o da voi? Vuoi fare delle cose insieme, capito, Toli? Non le posso fare a casa dell'ana, io. Vuole fare tutto insieme, Natalino, non si mette a fare le mezze cose, a picchiarla, a fare, l'ammazza direttamente e buca. La custodia già poi la sende. E fino al centro, to, due bollette via. E da arrivi a rumai fammi. Quando intendi sei cose, buon arrivi. Perché sa che non vi ruba. A rumai fa arrivi. Beh raga, io vi saluto, dai, che è già tardi. Devo farmi l'iniezione, dai. Ci sentiamo, grazie per il QSO, per le due cazzate dette e via dicendo. Ciao, a domani. alle 10:30 passa tu lì, mi alzo presto là, perché domani devo anche cucinare, non fate chissà, me ne devo cavare un volo da là. Vabbè, là, ci sentiamo, ciao ciao. Già, perché non cucina lì? Ma cosa? Beh, vabbè, io a 10:30 sono sotto da te, dai. Ok, ciao, buon condito, ci sentiamo, avanti Natalia. Ma lui tocca a me, tu lì. Ah, così è, vabbè. Ciao ciao Gianni, grazie per il QSO, alle prossime, dai. E anche io domani devo cucinare. Sì, ma già lo sai che anche da Bassi Bonoisi. Si è troppo tardi, non vi viene di nemmeno. Ma cosa? Io devo cucinare da lui, ed è un casino. Però vi diciamo da te, me ne va. E dopo ci abbiamo tutti da fare, quindi già ci sbrighiamo, dai. Però da Bricomen devo andare, Tony, lì devo andare per forza. Eia, Natali, 11:20, a voglia. Tu quando sei in Londra sei qua, c'è cosa dire, non andare. 11:30 massimo. Sì, vabbè, dai. Dai, così, dai. Tanto Gianni lo trovo già giù, io lo trovo alle 10:30, lo so già. E se non mi trombo, eh? No, che ti sveglio io con i messaggi. Dai, chiudo anch'io, chiudo, dai, che adesso inizia a telegiornare fra poco. Ok, ciao Natalino, ciao Gianni, a domani, state bene, buon proseguo di serata. E mo c'è su posta per voi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ci sei tu, no? No, ci sono, io non ti preoccupare. Se non ve lo dicevo, c'è su posta per te. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ci vediamo da no, Nico. Che poi non mi trovano mai, me, quando vengono qua dice c'è sposa per te, no io non ci sono, lo so, mi chiamo Antonino, no? Io sono Giovanni. Mi do tutto l'itinerario io, ve lo do col GPS. Quanto siete monilli, fate a bravi. Kappa, là, ci sentiamo, là, ciao ciao. Via, ciao ciao, vedo anche ascoltoni, ciao a tutti. Ciao.